Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Prima di arrivare al calcio, oggi i capitoli portanti del nostro appuntamento sono due. Uno è quello abituale del martedì, e cioè l'appuntamento con il calcio internazionale, ed è successo molto, soprattutto in Spagna, in questo fine settimana, con qualche analogia con quello che poi potrebbe forse accadere anche in Italia. Certamente c'è la vicenda Beckham da seguire, e più tardi Marco Bellinazzo, che è esperto, come sapete, anche di contratti, e di contratti complessi, quale questo, in questo triangolo tra il Galaxy, Beckham e il Milan. Prima di tutto però c'è da aggiornare ancora la domenica e il lunedì di veleni, tra incrociati tra Roma, Milano e Torino, con quello che di fresco è arrivato in redazione anche in questi ultimi minuti. Allora, partiamo da una lunga conversazione di ieri di Massimo Moratti. Al di là della simpatia dei romani, però per me era rigore, quindi mi è sembrato incredibile vedere la sicurezza con cui si dicesse il contrario. Quindi non stiamo lì a discutere, finisce così, d'accordo, uno dice una cosa, l'altro l'altra. Ha tirato un bel rigore, fra l'altro, Balotelli, ha fatto un bellissimo gol prima e un bellissimo gol di Crespo. Vabbè, se così deve essere, tutt'altro ci deve essere una polemica, il calcio è fatto anche di queste cose. Il carattere suo è quello, quindi ha fatto una buona partita, ha fatto la prima parte della partita, non era facile, e poi dopo invece ha preso il ritmo giusto, la posizione giusta, non so come, ma comunque certamente lui ha le qualità per poter trasformare una partita. Lo era da annullare? Ma no, perché c'era quel fallo su che, vabbè, insomma, dai. Boh, no, mi sembra di no, ma mi sembra che insomma forse non lo affronto con lo stesso astio con cui viene affrontata invece dall'altra parte questa cosa. Ci credevo che si pareggiasse, quindi poi ce l'abbiamo fatta. E, bene, mi è sembrato che ci fosse carattere nella seconda parte della partita, malissimo la prima, ma molto bene la seconda, sotto il profilo del carattere specialmente e del rendimento di qualche giocatore. Sì, bisogna fare un po' attenzione di partire più concentrati o meno, farsi prendere un po' meno dalla squadra avversaria nei primi minuti della partita. A proposito del calcio di rigore, della sua valutazione, delle mistificazioni su quel calcio di rigore concesso all'Inter, Nicola Rizzoli, nonostante sia quotato come il miglior arbitro della CAN di Serie A e B, per quel rigore è stato sospeso. Un contatto tra Motta e Balotelli c'è stato, ma non tale da giustificare il calcio di rigore. Collina se ne è reso conto in diretta e ha deciso per un paio di giornate di stop a Rizzoli perché ritrovi la serenità. A proposito appunto di valutazioni, una risposta di Ranieri a Mourinho, cui poi ne seguiranno altre, perché nel frattempo Mourinho ha riparlato, e ve ne darò conto subito dopo questo aver ascoltato Ranieri. No, non l'ho vista perché stavo in viaggio da Torino a Milano, perché sono andato ad una trasmissione sportiva, per cui non l'ho vista. Ho visto i filmati mentre stavo nella trasmissione, poi ho letto un po' i giornali e la Roma ha fatto una grossissima partita. Credo che l'abbia detto anche Mourinho, no? L'arbitro ha detto che non gli è piaciuto, per cui l'avrà detto anche lui, no? Si lamenta, no? Ma ha ragione a lamentarsi. Spalletti ha detto che si è lamentato dell'arbitro perché ha dato un rigore. Lui ha detto soltanto che si è lamentato dell'arbitro, che non ha fatto una buona prestazione. Ma tutte e due credo che abbiano detto la stessa cosa. Mourinho è un abile comunicatore, è bravissimo come allenatore, ma è ancora più bravo proprio come comunicatore. Io lo sapete come ragiono io su queste cose. Io con Spalletti facciamo una coppia, ormai è assodato. Non è ripetibile. Sì, quella famosa. Non mi dare quest'assist, perché poi ti faccio calcio di rigore. Questo era Ranieri con un finale insomma vagamente misterioso, ma forse anche per criptare qualcosa di non molto dichiarabile ai microfoni. Poi c'è stato, e queste sono notizie invece di agenzie recenti, Coboli Gigi, presidente della Juventus, che arrivando in Lega ha entro certi limiti stemperato, dicendo: quello su Balotelli non era rigore, ma probabilmente in presa diretta per un arbitro non era comunque semplice. semplice. Per il presidente juventino non si tratta però di favori ma di errori arbitrali. Certo, probabilmente l'Inter non è stata delle più penalizzate, ma è la storia che dice che l'Inter non ha più rigori contro da un anno. Contrattacco di Mourinho di pochi minuti fa. Chiedete a Ranieri che cosa voleva questa mattina quando mi ha telefonato. Così Mourinho ha risposto a un giornalista nella conferenza stampa di stamana da Piano Gentile, che è stata quasi un monologo. Sentite, negli ultimi due giorni non si è parlato della Roma con il miglior centrocampo d'Italia che finirà la stagione con zero titoli. Così come il Milan, mentre la Juve ha vinto con tanti errori arbitrali. Ranieri sta con Spalletti, avete sentito prima, ma io sto con Zenga, Del Neri e Brandelli che hanno perso tre punti contro la Juve. Sono con Novellino e Marino perché loro sarà meglio non giocare. Per loro sarà meglio non giocare e mandare in campo la prima. Vera. Chissà, forse anche per noi sarebbe meglio non giocare perché sta per arrivare il giorno dello scandalo. Io non manipolo l'opinione pubblica, non sono il campione del prime time, non si parla del Milan meno 11, si parla di Balotelli sul rigore sul quale comunque non si può dire che non c'è. L'unica gara che abbiamo vinto con un errore a favore è stata a Siena, io l'ho detto, ma forse sono troppo avanti e si preferiscono conferenze stampa stile medioevo. E ancora, a me non piace la prostituzione intellettuale, a me piace l'onestà intellettuale. Mi sembra che negli ultimi giorni ci sia una grandissima manipolazione intellettuale, un grande lavoro organizzato per cambiare l'opinione pubblica per un mondo che non è il mio. Siamo già collegati con Fabio Tavelli, buongiorno Fabio. Avevo la tentazione proprio di mettere giù, sì, buongiorno. Di mettere giù, buongiorno a tutti, ovviamente no. Ma... No, invece ci agganciamo, prima leggo ancora una mail, tra le 100 e passa che mi sono arrivate da ieri, alcune molto severe perché ieri mi è scappato in diretta un cialtrone indirizzato a Mourinho, che è insomma, secondo me il fallo di reazione, no? Tipico che comporta il cartellino, poi bisogna vedere il livello di provocazione precedente, ma lo dico perché tra le tante mail arrivate mi è arrivata questa firmata Giancarlo Cologni proprio un minuto prima di entrare in onda, che mi ha scritto: signor Garanzini, porti rispetto all'allenatore dell'Inter, una persona troppo vera in un ambiente di manipolatori come quello dei media italiani, si guardi intorno, probabilmente troverà molti ciarlatani. Allora, io non la penso ovviamente come Giancarlo Cologni, ma lo ringrazio e faccio ammenda, perché ieri la parola esatta da usare non era cialtrone bensì ciarlatano, credo proprio, e ringrazio, ripeto, Giancarlo Cologni, che mi avesse scritto ieri mi avrebbe evitato una gaffe di cui mi dispiaccio e soprattutto mi avrebbe aiutato a trovare la definizione. Ciarlatano credo che sia l'etichetta, proprio il battesimo di José Mourinho. Fabio, ne ho già chiesto conto altre volte, soprattutto a Nicola Roggero, che come sappiamo è l'anglofilo per eccellenza, no? Della nostra pattuglia. Mi pare di ricordare che Mourinho si fosse esibito quasi su questi livelli anche lungo la sua permanenza inglese, ma considerato che là il calcio, come sempre ci raccontate voi, è vissuto in maniera molto più stemperata e molto più sportiva, molto più free, non so nemmeno come dire, qui c'è un salto di qualità che dipende proprio da come è fatto il nostro calcio. Guarda, dipende da come è fatto il nostro calcio, dipende da come sono fatti i tifosi e dipende anche da come è fatta la stampa, nel senso che in Inghilterra le proprietà delle squadre sono delle proprietà spesso in mano a gruppi grandi o meno grandi, ma comunque esteri, che solitamente non sono poi nella maggioranza dei casi proprietari di mezzi di comunicazione, quindi non c'è il sospetto che tirino acqua a certi mulini. C'è certamente da parte di molti protagonisti una tendenza a non accentuare determinate cose perché non interessano. La verità è che in Inghilterra c'è una stampa che è quasi unicamente scandalistica e che si interessa solo delle paparazzate e di quant'altro, e c'è un altro tipo di stampa che invece si occupa quasi esclusivamente delle cose di campo. Detto questo, sono molto poche le occasioni nelle quali i protagonisti esternano perché evidentemente interessa poco il teatrino, nel senso che alla fine della partita c'è giusto un'intervista che viene fatta per la televisione che detiene i diritti e pochissimo altro. Diciamo che l'aspetto chiacchiera è minoritario e poco interessante per i tifosi, cosa che evidentemente non è così in Italia, e questo probabilmente fa tirar fuori il peggio spesso sia ai protagonisti che la conferenza stampa la guidano, cioè gli allenatori, i giocatori, i presidenti, che anche alla stampa, perché un ruolo pesante in questo tirar fuori il peggio dai protagonisti spesso ce l'abbiamo anche noi, dobbiamo oggettivamente ammetterlo, noi in quanto categoria. Passiamo in Spagna, dove sta succedendo qualcosa di non strano, non so come lo definirebbe Mourinho, strano probabilmente, o quasi certamente, sta succedendo qualcosa di molto sorprendente. Campionato strachiuso, due settimane fa campionato apertissimo. Sì, perché ci sono 4 punti di vantaggio, il Barcellona si è mangiato una dote veramente importante, però io proverei a ribaltare la cosa, cioè che il Barcellona possa perdere una partita ci sta, che ne possa perdere 2 consecutive per come le ha perse a parer mio ci può stare, con sì, una dote così ampia. Quello che è strano non è secondo me che il Barcellona abbia perso queste 2 partite, quello che è clamoroso sono le 10 vittorie consecutive del Real Madrid, cioè io proverei per una volta a non dire il Barcellona è in crisi, proverei a dire il Real Madrid sta andando alla velocità della luce e quindi in questo momento, non potendo il Barcellona umanamente tenere è quella media pazzesca che aveva tenuto da metà ottobre in poi, un piccolo calo, piccolo grande calo ci poteva stare. La sfortuna, se vogliamo chiamarla così, del Barcellona è che il piccolo grande calo, questo credo lo scopriremo a Mallorca sabato sera, è coinciso con un momento fantastico del Real Madrid, che ha assunto quando Ramos ha perso subito a Barcellona e poi ha vinto 10 partite consecutive, cioè ha fatto 30 punti in 10 giornate. Ed era abbastanza chiaro che il Barcellona non potesse fare anch'esso 30 punti in 10 giornate, qualcosa ha perso per strada, ha perso una partita bellissima contro l'Atletico Madrid, una di quelle che puoi perdere ma puoi anche vincere, nel senso che il Barcellona ha fatto un gol con Messi che io... cioè, se avessi la possibilità di continuare a rivederlo me lo vederei molto volentieri, mi ha ricordato un gol di Maradona nell'86 contro il Belgio e anche Henry ha fatto un gol meraviglioso, il gol dell'1-0. È una squadra che sta prendendo un po' di gol e perché la difesa evidentemente che era comunque anche prima un punto debole viene meno protetta dal centrocampo, però io continuo a pensare che il Barcellona sia più forte del Real Madrid e che adesso dopo 10 vittorie consecutive anche il Real Madrid qualcosa dovrà pagare e che il Barcellona rimanga comunque la favorita per il titolo. Mancano 14 giornate e lo scontro diretto deve ancora esserci, sarà a maggio al Bernabeu, quindi su quello il Real Madrid può indubbiamente contare. Certo. Sto vedendo però che sin dal prossimo turno quello che tu hai, non dico auspicato, ma insomma hai lasciato intravedere, potrebbe avere già un fondamento, perché dopo 10 vittorie consecutive domenica il Real Madrid gioca il derby proprio con l'Atletico ed è un banco di prova pesante evidentemente. Certo, anche perché l'Atletico battendo il Barça si è gasato mica male, il Barcellona riceve l'Athletic Bilbao, un duello comunque molto bello, molto accorto, per merito più del Real Madrid del Barça. Giochi almeno teoricamente riaperti in Spagna, giochi mai chiusi in Francia, dove il Lione è stato avvicinato da un gruppetto di squadre, giochi apertissimi più che mai in Germania, dove addirittura arriva il Wolfsburg a inserirsi nella lotta per il titolo. Questo può voler dire 2 cose, che il campionato è molto bello e io credo che lo sia, nel senso che poi... c'è un fattore ambientale secondo me davvero unico, quasi unico in Germania, perché basta vedere anche le partite della seconda divisione, la Zweite Bundesliga, per vedere sempre stadi bellissimi, pieni e quant'altro. C'è una qualità di gioco che non è bassa, certamente non è bassa. Il fatto che ci siano così tante squadre racchiuse in pochi punti è forse la dimostrazione che stiamo vivendo un periodo abbastanza basso, mediamente basso, cioè l'Hertha Berlino, l'Hamburgo, l'Hoffenheim, il Wolfsburg, il Bar di Monaco, allo stesso Bayer Leverkusen, allo stesso Stoccarda che ha 36 punti, cioè la settima che è lo Stoccarda ha 36 punti sui 43 della prima, cioè ci sono 7 punti di distacco che sono anche bene o male i punti che ballano tra la prima e la seconda del campionato italiano, quindi è chiaro che De Zan l'avrebbe definito gruppo compatto o situazione fluida. È bello perché certamente ci sarà una volata, poi magari qualcuno si stacca, parte e se ne va, però ad esempio anche l'Hoffenheim che tu tutti, abbiamo pensato fosse come il Chievo del primo anno, che poi sarebbe destinato a calare, ma in realtà è calato pochissimo, perché ha due punti dalla vetta, ha perso Ibisevic che era il suo uomo più importante, l'ha perso per tutta la stagione, eppure è una squadra che è ancora lì, insomma, per cui io lo guardo sul, vado a leggere le sconfitte, cioè l'Hertha Berlino è prima ma ha già perso 5 partite, è vero. L'Hamburgo ne ha perse 6, quindi vuol dire che insomma, complessivamente non sono grandi squadre, cioè, se tu pensi davvero che la prima ha 43 sì, punti. Sì, è un equilibrio, esatto, verso il basso. Insomma. È un equilibrio, sì, è uno schiacciamento verso il basso. Non diciamo la mediocrità, non usiamo questo termine, ma certamente... No, ma possiamo anche usarlo, è grave. No, senza mancare di rispetto in questo caso a nessuno. Certo. Oh, in Inghilterra il Manchester può ormai addirittura permettersi, no, dopo la sua grande rimonta, potrebbe permettersi di non giocare, o meglio, di non giocare in campionato, di vincere un trofeo, così tanto per non perdere l'abitudine, e di aumentare o comunque lasciare intatto il vantaggio sulle seconde. Sì, perché ha perso il Liverpool contro il Middlesbrough ed è stato agganciato dal Chelsea, che si è molto rilanciato sotto la guida di Gus Hiddink, e adesso la classifica dice 62 Manchester United, 55 Chelsea e Liverpool, e il Manchester deve recuperare una partita, quindi insomma io credo che sia veramente molto molto difficile. Anche l'Aston Villa ha perso un'occasione avendo pareggiato, resta l'Arsenal che è quinto e ha 46 punti, l'Arsenal in questo momento è a 6 punti dal quarto posto, cioè da un turno preliminare di Champions League, quindi è veramente una situazione difficile. L'Arsenal ha pareggiato in casa col Fulham ancora una volta 0-0, una squadra che fa una grande fatica a segnare, questa è una buona notizia certamente per la Roma. Credo che insomma il Manchester United adesso deve giocare anche in FA Cup, ha vinto la Carling Cup, ha vinto il Mondiale per Club, è in corsa per la Champions League, non credo, perché sarà molto difficile che faccia il grande slam e vinca 5 titoli, ma insomma 3-4 li può vincere quasi in carrozza ormai. Senti, c'è una chiusura diversa dal solito, perché c'è nel campionato svizzero c'è una grande rimonta. Leggo, è caduta la linea. Allora io manderei in onda un ascoltatore mentre ripeschiamo Fabio Tavelli per quest'ultima curiosità. Il primo ascoltatore di oggi è Francesco, che ha chiamato da Palermo. Buongiorno. Dica Francesco. Buongiorno. Io volevo chiedere una cosa a lei quanto riguarda Balotelli, no? Sì. Lo sappiamo che questo ragazzo è un pochettino, perché diciamo maleducato, non lo diciamo, perché c'è una trasmissione maleducato, ma certi giocatori, questi giocatori come Bonic, anche si dovrebbe dimenticare la vita che faceva il lavoro, e poi dicono i ragazzini maleducati, non sarebbe meglio moderare un po' i termini, soprattutto quando hanno giocato a calcio, perché i giocatori tutti li hanno fatto queste cose, ma magari... Beh, insomma, piano, piano, nel senso che ciascun giocatore nell'arco di una carriera a qualche intemperanza si sarà lasciato andare. Io non ne ricordo in particolare di Boniek, ma insomma, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Questo vale per tutti, anche per me, a cominciare da me, e mi riferisco a ieri. Ma insomma, da qui però a non essere legittimati a criticare certi atteggiamenti provocatori, beh, insomma, non credo. Un conto è la legittimazione a scagliare la prima pietra, un conto è che insomma, senza arrivare alle pietre, mi pare che qualche sassolino ogni tanto si possa anche far circolare, e soprattutto quando un ragazzo... Ma tutto nasce dal fatto che stride vedere un giocatore di quella classe, direi anche di quelle eleganze, di quelle potenzialità, stride vederlo indulgere a comportamenti infantili, a comportamenti... Ma non mi sembra che sia nulla di male in questo, anzi, se c'è una critica costruttiva è questa, a parer mio. È tornato in collegamento Fabio Tavelli. Dicevo, Fabio, che potremmo chiudere per una volta con una cosa un po' diversa dal solito, cioè il Bellinzona che gioca la prima divisione svizzera, è una squadra insomma, mezza italiana, per via che comunque la Svizzera italiana, sappiamo che ci sono gli Eson notevoli, è una squadra italiana in buona parte perché italiano è il presidente, e italiani sono alcuni protagonisti. Leggo dalla Gazzetta di oggi, per esempio, che questa rimonta fino al sesto posto in classifica è stata propiziata, per esempio, domenica da un gol di Beghetto, ex Treviso direi, e da un assist di di Conti. Conti è il fratello di Daniele Conti, regista del Cagliari, e a sua volta figlio di dell'ex campione del mondo di Brunetto. Poi ci sono Zotti, che è il portiere, e un certo un altro La Rocca, che sinceramente non ricordo da dove arrivi. Però addirittura in Svizzera adesso ci sono dei cacciatori italiani che cercano gloria e che in parte ne trovano. La trovano perché intanto è un campionato dove comunque ci sono degli ingaggi seri e puntuali. La puntualità in questo caso è svizzera e non a tutte le latitudini c'è nei pagamenti. È un campionato vicino e quindi abbastanza comodo per chi comunque non vuole troncare troppo con le proprie origini, ed è un campionato che evidentemente può entusiasmare non proprio le folle, ma insomma, per quanto riguarda giocatori medi italiani, tu hai citato Beghetto, hai citato Zotti, cioè giocatori che possono fare tranquillamente la Serie B e che possono anche magari ogni tanto aspirare a farsi vedere in Serie A, magari in Svizzera possono trovare una dimensione che è anche superiore a quello che avevano nel campionato italiano. Quindi diciamo che è un approdo, ma insomma in Svizzera c'è andato anche Bigon, ma anche nel basket c'è andato Franco Casalini, ci sono andati anche altri giocatori. Insomma, mi sembra un modo onesto di mantenere comunque la propria dignità calcistica senza andare, certo, a cercare di finire la carriera in qualche paese esotico o quant'altro, e di restare anche tutto sommato vicino a casa. Fabio, non solo, io credo che potrei anche prendere l'impegno prossimamente di approfondire un po' questa vicenda Bellinzona, perché nel calcio svizzero accade qualcosa che da noi, anche altrove, anche in Premier League per esempio, ma da noi è assolutamente impensabile, e cioè la prima cosa che contano sono i bilanci delle società, non sono gli ingaggi dei giocatori, e un giorno o l'altro ci potremmo far raccontare proprio dai dirigenti, magari dal presidente del Bellinzona, come funziona in Svizzera. Da questo punto di vista credo che tutti potremmo trarne, se non insegnamenti, perlomeno profondi motivi di riflessione. Grazie. Sì, poi salvo poi Gigi alla prossima domenica a capigliarci di nuovo sul rigore. Stiamo ancora discutendo il gol di Turone. Se hai 30 secondi, Gigi, ma certamente lo sai pure di più, dai, c'è una storia bella che riguarda Ronaldo, perché 12 anni fa Ronaldo scartò praticamente tutta la squadra del Compostela in una partita che il Barcellona giocò contro il Compostela, appunto. Sì. E queste immagini furono acquistate per l'equivalente di 31.000 euro dalla Nike per girarne uno spot che diceva grosso modo: se vuoi chiedere a Dio come si gioca, ecco che Dio ti esaudirà e ti farà giocare così, e più o meno, grossolanamente. E c'era questa immagine di Ronaldo che si portava a spasso, ma vera però, non manipolata come le traverse, no, certo, che abbiamo non quelle visto. Di Ronaldinho. Ecco, ma in generale, insomma, sì, quella era vera. E questi 7 giocatori del Compostela denunciarono la Nike perché si sentivano presi in giro, e curiosamente non ci fu il portiere tra coloro che denunciarono la Nike. Dopo 12 anni è arrivata la sentenza che ha di fatto scagionato l'azienda e quindi legittimato questa multinazionale a utilizzare un suo testimonial come Ronaldo per dimostrare come si gioca nel paradiso del calcio, senza essere offensivi o blasfemi nei, certo, confronti di chi invece... Perché è una documentazione. Perché? Perché è una roba, certo, una cosa vera. È una cosa vera, tanto, no, non è un tarocco. Grazie Fabio Tavelli. A voi, buona giornata. Chiudiamo questo collegamento, 2 messaggi. Mi spiace essere in disaccordo con lei, ma le ultime dichiarazioni di Mourinho mi trovano completamente d'accordo. Per me invece, scrive Luca da Bologna, bisogna dar sempre ragione a Mourinho, come si usa fare con i matti, perché è indifendibile. 2 ascoltatori e poi facciamo l'intervallo e poi parliamo di Beckham. Enrico da Torino, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Dica. Buongiorno Garanzini. Senta, io volevo intervenire a proposito della Juve, visto che gioca questa sera. No? Sì. So che mi dissocio da molti ascoltatori che sicuramente la penseranno in maniera diversa da quello che posso esprimere io. Io credo che la Juve, finché non si sgancerà, e lo deve fare in fretta, da Del Piero, non riuscirà più a ritrovare un gioco. Contro il Chelsea credo che la partita del Piero sia stata penosa, così come è stata quella contro il Napoli. È stato anche per la prima volta forse fischiato apprezzato dal pubblico amico, e questo è un fatto un pochettino insolito, ma credo che un giocatore che ormai abbia fatto, è stato un grande, è stata una bandiera, ma al di là di questo oggi non ha più queste, come dire, capacità di gioco che poteva avere qualche anno fa. Ma Enrico, però io questi discorsi li ho già sentiti fare altre volte, e poi ogni volta, poi un giorno accadrà che Del Piero non riuscirà più a zittire questo genere di critiche, però fino adesso ci è riuscito spesso, non vorrei che fosse un po' prematuro. Mi informa Flavio Suadi che La Rocca, questo giocatore del Bellinzona, è un difensore dell'84 che ha giocato in Provercelli, Chieti, Fermana, Torres e adesso per l'appunto è in Svizzera e Bellinzona. Ancora un intervento veloce per cortesia e poi passiamo alle borse, che ho paura ne valga la pena anche oggi. Andrea da Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie Garanzini. Ritorno velocissimamente su Moratti perché è impossibile non spendere due parole. Dopo quello che ho detto ieri, penso sia non vergognoso, però abbastanza scandaloso negare l'evidenza che il rigore non c'era, non so, l'avrà visto probabilmente lui, suo figlio, Riali e qualcuno in panchina. No, penso, vabbè che il signor Moratti porta gli occhiali, però io sinceramente... Andrea, per la verità, sì, ho capito, Andrea, per la verità l'ha visto anche Rizzoli, poi Rizzoli si è beccato due giornate di squalifica, perché questo è nella sostanza da collina, ma l'ha visto anche l'arbitro, adesso non esageriamo, ho esagerato anch'io ieri, adesso vediamo di tornare un pochino nell'alveo, un po' alla volta, anche se con Mourinho non è semplice, mi rendo conto, e in qualche versione nemmeno con Moratti, così come anche altrove per la verità. Diciamo che oggi il gusto della mistificazione, se non altro, appartiene più a quella parte e in particolare al suo allenatore. Oh, tra l'altro stasera c'è questo Lazio-Juventus di Coppa Italia, partita d'andata, perché le semifinali di Coppa si giocano sull'andata e ritorno. Lazio-Juve all'Olimpico stasera, vi dicevo, con molte assenze volontarie, soprattutto nella Juventus, molte di più nell'Inter domani sera a Genova sul campo della Sampdoria. Non sono costati convocati Ibrahimovic, Figo, Samuel, Burdisso e nemmeno Santon per uno stato febbrile, ma non partono nemmeno il portiere Julio César, gioca a toldo, e Cruz per scelta tecnica. C'è in studio Marco Bellinazzo, bentornato Marco. Buon pomeriggio. Il punto sul contratto di Beckham. Allora, brevissimo riassunto. Beckham avrebbe giocato domenica prossima la sua ultima partita italiana contro l'Atalanta a San Siro. L'annuncio della CBS, a cui insomma è ragionevole prestare un minimo di fede, questa stazione locale televisiva di Los Angeles, Beckham resterà nelle file del Milan fino al prossimo giugno, a luglio tornerà a giocare nei Galaxy. I Galaxy avrebbero chiesto 10 milioni di dollari, ma il Milan avrebbe pagato una cifra molto inferiore. L'annuncio è atteso della conclusione definitiva, è atteso a giorni, se non ad ore. Impressioni, osservazioni e valutazioni finali. Il caso Beckham sicuramente sarà un caso esemplare, farà scuola in un modo o nell'altro, perché a questi livelli, insomma, di un giocatore prima con un prestito bimestrale o trimestrale, ora un giocatore part-time che sarà costretto, tra virgolette, a saltare le vacanze, perché appena finirà di giocare in Italia dovrà tornare a giocare nel campionato americano, e poi a novembre o a gennaio addirittura si parla di un ritorno in Italia, vedremo attraverso quale formula contrattuale. È un caso scuola, sì. E Platini si era un po' lamentato, insomma, di queste trovate contrattuali, vedremo se poi sarà vietato o meno. Ecco, perché da qui a dicembre poi ci potrebbe essere questa evoluzione, indubbiamente. Immagino di sì, perché di fatto sono formule contrattuali non previste in qualche modo dalle norme internazionali sui trasferimenti, che contemplano l'acquisto del giocatore o il prestito che però va, diciamo, da un certo punto della stagione, quando si apre il mercato, alla fine della stagione. E certo, la Federazione Internazionale qualche anno fa, proprio per evitare, diciamo, acquisti o vendite di giocatori durante tutto l'anno, ha previsto due periodi soltanto con termini, sì, specifici, insomma, per gli acquisti, cioè durante l'estate e poi nel mercato di riparazione in inverno. E diciamo la formula contrattuale che è stata ora trovata, che si sta delineando, perché le agenzie che sono uscite in queste ultime ore non sono del tutto univoche, sembrerebbe appunto muoversi tra le pieghe dei regolamenti, insomma. Va fatto un complimento, insomma, ai legali del Milan, ai legali di Beckham, che hanno trovato il modo, insomma, di individuare una soluzione, di individuare una formula. Ci sono, secondo me, varie valutazioni da fare su questo caso, insomma. Di ordine economico ci portano a dire, a mio avviso, che il Milan ha fatto bene, economicamente è un vantaggio, tra l'altro non solo per il Milan, ma per l'intero movimento calcistico italiano. Insomma, avere in rosa determinati campioni aiuta la vendita dei diritti televisivi, in particolare all'estero, mercati e sui mercati esteri il calcio italiano è un po' più debole di quelli diciamo di calcio inglese o, sì, o spagnolo, quindi la presenza di Beckham aiuta, e anche le amichevoli che ora il Milan deve giocare con lauti compensi sembrerebbe giustificano economicamente il passo. Beckham quindi rimane, non poteva, il Milan non poteva sinceramente rinunciare a questa risorsa, anche se un po' ridimensionata nelle ultime due o tre partite, dovendosi giocare questo terzo posto o quarto come obiettivo minimo di stagione, che è l'ultimo rimasto, anche se insomma la sensazione è un po' quella di chi si compra un mobile antico, non dico tarlato ma antico certamente, arreda fantasticamente un pezzo di salotto, ma sa già che poi tra giugno e luglio entreranno gli operai a disfare la casa, per ristrutturarla, perché rifare le tubature di tutto, no? E le condutture, perché mi pare che per come è conciata la difesa e per come la squadra in generale, insomma, è una ristrutturazione che è già tardata troppo e che adesso credo ineludibile. Visto che ci sono molti ascoltatori che premono oggi sul centralino e che il nostro appuntamento abituale è quello del giovedì, caro Marco, io direi che una volta ringraziato per questa puntualizzazione su una vicenda che in questi giorni appunto si deve chiudere, potresti annunciarci che cosa ci aspettiamo giovedì dal consueto appuntamento con il Sole. Il Tribunale di Losanna ha riaperto ufficialmente il procedimento per Mannini e Possanzini, è un fatto storico, non era praticamente mai accaduto. Ecco. C'è stata una forte pressione anche di organismi, diciamo, che governano il calcio a livello internazionale, perché questo fa parte di uno scontro al vertice tra la WADA e la FIFA su come diciamo, gestire le norme antidoping. C'è qualche novità importante sul campo, insomma, dell'antidoping, e ci sono tra l'altro movimenti particolari anche del mondo dello sport italiano che sembra andare in direzioni opposte, insomma l'Italia si sta candidando per gli europei del calcio del 2016, quindi abete, la federazione si muove in un certo modo. Dal CONI, da Petrucci, è arrivata una indicazione molto chiara alle società che se si vogliono costruire gli stadi devono farle da solo e senza l'aiuto dei comuni. Quindi insomma in qualche modo si devono mettere d'accordo, perché immagino uno sforzo per ammodernare gli stadi in vista dei campionati europei non si possa fare, insomma, senza l'intervento pubblico. Certo. Sono due belli argomenti, appuntamento a giovedì, più varie ed eventuali, grazie a Marco Bellinazzo. Torniamo agli ascoltatori, con tutto il cuore, la smetta di fare radio, scrive Massimo da Lucca, e si mette a fare salotto con i suoi amici milanisti e juventini. Beh, milanisti e juventini non è semplicissimo, vedrò di scegliere, no, tra queste due antiche passioni del cuore. Grazie Massimo del consiglio. Leonardo da Trento, buongiorno. Buongiorno. Dica. Leonardo, proviamo a richiamarla perché la linea non è buona. Andiamo a Milano da Alessandro, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dica. Ma io volevo, così, ho letto le interviste sia Moggi che Ranieri, si appoggiano a vicenda per attaccare in particolar modo Mourinho. A me sembra una stranissima alleanza. Non vorrei che il signor Moggi volesse, diciamo così, come riaccreditarsi per evitare l'azione di responsabilità che la famiglia Agnelli gli dovrebbe fare, secondo me è doveroso che gli faccia, per i danni fatti alla società. Alessandro, escludo che Ranieri, che è una persona, no, di una certa addirittura morale, si possa alleare con Moggi. Moggi sta cercando da 3 anni di riaccreditarsi, un'operazione in pura perdita, ma insomma sono 3 anni, e a seconda dei momenti e delle situazioni si attacca a questa, a quell'altra, o a questo o a quell'altro per perseguire questo suo obiettivo, non crede? Ma io ho dei dubbi, però aspetto l'azione di responsabilità, come mai non viene ancora fuori? Non sarà mai Ranieri a dover fare un'azione di responsabilità, sarà la società, mica l'allenatore, no? Evidentemente non è mai Ranieri, però Moggi sì. Moggi se la deve aspettare prima o poi, no? Sì, no, no, non capisco però perché Ranieri dovrebbe essere alleato, no, di Moggi. Oggettivamente alleato, cioè nel senso che evidentemente chi ha strumentalizzato la situazione è stato Moggi, secondo me. Ecco, situazione di andare in aiuto. Beh, sarà mica... Comunque Ranieri non ha, diciamo così, non si è, diciamo così, staccato da questo supporto, anzi. Ma nemmeno Spalletti, ma nemmeno tanti altri, ma Moggi sono cioè, ripeto, è da all'indomani, no, del macigno che piombò su di lui e più che su di lui sulla Juventus. Moggi, se si ricorda, gli avevano ucciso l'anima in quel momento. Poi, un po' alla volta, l'anima si è riavuta, per fortuna, e quindi è vivo, lotta insieme a noi e combatte la sua battaglia. Poi, probabilità di riaccreditarsi in maniera autorevole, a parer mio, qualcuna meno di zero. Tentativi con stridore di unghie sui vetri di arrampicarsi seguendo la cordata un giorno di questo, un giorno di quello, sempre con un unico nemico da colpire, beh, insomma, è un film che è vecchio di 3 anni adesso, quindi non credo. Gente che c'è cascata fino ad ora, pochi, sinceramente pochini, se non i fedelissimi e i nostalgici della prima ora. Da Palermo, Giovanni, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Prima di tutto avevo preparato un sms per lei dopo quello che aveva detto ieri, ma l'ho ritirato dopo la sua ammissione di colpa. No, colpa no, Giovanni, lo mandi pure, perché non lo mandi pure, può succedere. Va bene, no. Ho detto che può accadere. Possiamo parlare d'altro, guardi. Ecco, bravo. Quello che devo dire è questo, l'atteggiamento che c'è di critica eccessiva nei confronti dell'Inter, penso che alla fine possa giovare a vantaggio dell'Inter stessa, perché potrebbe aumentare la motivazione, perché l'unico modo che può avere l'Inter per far tappare la bocca a tanti è quello di vincere, e ritengo che questo possa alla fine giovare. Infatti vedo che molte squadre come il Milan, la Roma, che comunque sono in qualche modo, vogliamo dire, criticate meno, poi alla fine potrebbero essere meno motivate ad arrivare in campo con il bisogno di vincere, ecco, per difendersi in qualche modo. Che ne pensa? Ma penso che le chiavi di lettura possibili sono tante. Penso che comunque il nostro calcio abbia in ogni caso bisogno di attori e protagonisti più responsabili, più legati ad un minimo, cioè che sentano il dovere di un minimo sindacale di responsabilità e di autocontrollo, perché non bisogna mai dimenticare che cosa c'è fuori. Fuori ci sono menti deboli, deboli appunto da quel punto di vista, ma violenti nei comportamenti, che, a cui non bisogna concedere alibi, a cui non bisogna concedere pretesti, non bisogna armarli, no? Nemmeno in senso metaforico, è molto alla lontana. Da questo punto di vista credo che ci siano dei comportamenti davvero poco responsabili da parte di alcuni protagonisti, e di uno in particolare, insisto, che poi questo serva a motivare o non motivare, viene dopo e non toglie la irresponsabilità di certe dichiarazioni, di certe frasi e di certi atteggiamenti. Due notizie in breve. La prima è che sarà Saccani di Mantova a dirigere Sampdoria Inter domani sera, semifinali andata di Coppa Italia. Un arbitro certamente non in forma quest'anno, è il minimo che si possa dire di Saccani. Stamane Cinzia Cosini Valadaresa Mauri, Mauri, moglie dell'attaccante della Juventus, ha giurato fedeltà alle leggi dello Stato, Repubblica e Costituzione, diventando cittadina italiana. Dovranno trascorrere 24 ore, poi la donna diventerà appunto cittadina italiana a tutti gli effetti, ottenendo il passaporto. Ora potranno essere avviate le pratiche legali affinché suo marito Amauri venga naturalizzato. Il ripasso di storia, il 3 marzo, nel racconto di Nicola Filippone. Sembra ieri. 3 marzo 1968. Il Milan di Rocco e Rivera, capolista incontrastato in campionato, rimedia la prima e unica sconfitta stagionale casalinga. gliela infligge a sorpresa un Cagliari che schiera già Gigi Riva in attacco, ma non ha ancora ambizioni da scudetto. L'impresa dei sardi, allenati in quella stagione da Ettore Puricelli, vecchia gloria rossonera, è resa possibile dal gol partita realizzato da Jerry Hitchens, ex dell'Inter, tuttora l'inglese con più presenze e reti in Italia. Dopo l'inaspettato scivolone a San Siro contro il Cagliari, il Milan riprenderà con un successo per 3-0 in casa della Samp la rotta verso il suo nono titolo, che conquisterà matematicamente il 31 marzo, con 4 giornate d'anticipo. Torniamo agli amici già collegati con noi, sulla linea 3, vedo Prato, Bruno da Prato, buongiorno. Buongiorno, Garanzini. Dica. Senta, l'altro giorno ha chiamato un ascoltatore parlando di Beckham, si parlava dei cross, no? Questi cross di Beckham, mi ha fatto venire in mente questo problema. Che io seguo le partite e vedo che i calciatori che sanno crossare veramente bene, che quando vedi la palla, già quando parte vedi che è pericolosa, sono pochi. In maniera particolare, l'ultima partita, io sono juventino, che ho visto la Juventus contro il Chelsea, una cosa incredibile, su 10 cross ne venivano sbagliati 8, ma compreso Del Piero e anche da fermo, cioè palle che non arrivano neanche in aria. Uno di quelli che mi sembra di vedere giocare ultimamente che cross, e quando si vede insomma che le palle partono bene, sono pericolose, mi sembra Balotelli. Questo è tutto, la ringrazio. Sì, non è il solo colpo che Balotelli ha a sua disposizione. Balotelli di colpi ne ha tanti. Eccellenti. Se lo scorso anno, lei ricorderà, se lo scorso anno Mancini ha un anno meno di oggi, aveva, a parte che era molto più sereno per sua fortuna, ma era più giovane ancora di un anno ed era proprio appena sbocciato la ribalta, se Mancini gli affidò non solo l'Inter, praticamente l'attacco dell'Inter nella fase decisiva del campionato in cui non c'era Ibrahimovic, ma gli diede il compito di battere tutti i calci di punizione, tutti i corner, insomma tutti i calci piazzati affidati a lui, Mancini a differenza di altri è uno che a calcio ha giocato, quindi sa cosa vuol dire un piede morbido, una traiettoria che arriva in un certo modo anziché in un altro, quindi questo fa parte del repertorio di Balotelli. Poi è vero che in genere si cross, non si crossa particolarmente bene. Domenica, come sempre gli accade, visto che è la specialità della casa, Beckham qualcosa in mezzo ha buttato, ma non ha mai pescato esattamente nessuno dei compagni. Il cross giusto l'ha fatto Favalli a 10-15 minuti alla fine, comunque perfetto per la testa di Pato, che non a caso l'ha trasformata. Pietro da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Per quanto riguarda Balotelli, credo che i suoi atteggiamenti, che sono magari un po' leggermente sopra le righe, facciano parte un po' della sua personalità. Per me ha zittito i tifosi avversari che l'avevano irriso per il suo colore della pelle. Beh, fin lì non c'è nulla da dire, intendiamoci. Questo credo che sia un suo buon diritto, anzi. Sì. E poi ha fatto una linguaccia un po' goliardica ai difensori della Roma, certamente sarebbe stato meglio che non l'avesse fatto, ma non ci ricamerei più di tanto. No, se non si buttava in aria, cioè se la linguaggia non seguiva il tuffinare, era meglio, insomma, no? Vabbè, per quanto riguarda Mourinho, sta tutelando, diciamo, gli interessi della sua squadra, e in maniera vergognosa è stata presa di mira da diverso tempo a questa parte, e credo che la realtà dei fatti è quella che oggi, in maniera abbastanza colorita, lui ha messo in risalto il fatto che l'Inter è 3 anni che domina il palcoscenici, e questo sicuramente darà molto fastidio agli avversari e alla critica. Per quanto riguarda le trasmissioni, compreso la nostra che stiamo ascoltando adesso, sicuramente anche la nostra trasmissione, così come i toni che usa Mourinho piuttosto che i giornalisti, contribuiscono magari a esaltare le teste poco equilibrate di persone che sono fuori. Questo mi riferisco a quello che diceva lei, signor Garanzini, prima, che stiamo andando un po' fuori dal seminato. Sì, bisognerebbe sempre stabilire chi ha cominciato. Mourinho ha appena detto: a me non piace, ripeto la frase di stamane, la prostituzione intellettuale, a me piace l'onestà intellettuale, detta da Mourinho mi sembra una stupenda affermazione. Speriamo che sia l'inizio di un nuovo corso, perché se l'onestà intellettuale è quella di un tecnico che domenicalmente esce, no, ormai è una prassi consolidata, e ribalta, no? Ribalta completamente la situazione, cioè nel caso di domenica, per esempio, il problema non è più quel calcio di rigore per l'Inter, ma è un molto presunto fallo di Battista su Cambiasso, e con annessa accusa a Cambiasso di aver esagerato, di essersi comportato in maniera educata sportivamente anziché fare la scena. Beh, insomma, se andiamo a vedere chi le comincia, no, queste cose, se questo è fare gli interessi di una squadra o far bene il proprio mestiere, beh, insomma, allora evidentemente i parametri li abbiamo persi tutti, e di questo sinceramente non mi meraviglio molto. Dalla provincia di Foggia, Franco, buongiorno. Pronto? Buongiorno Franco. Abbassi la radio per cortesia, perché c'è un... Salve dottore. Un eco, buongiorno a lei. L'ho spenta completamente. Grazie. Mi consenta un attimo, un po' di, un qualcosina in più. Innanzitutto volevo aprire il discorso dicendo che come fa uno juventino a giudicare Moratti se ha bisogno di lenti oppure no? La giurisprudenza a me insegna che anche il killer ha diritto a un difensore o no? Franco, già dalla premessa direi che non... Vediamo di lasciare stare le premesse, dica. No, volevo dire... Sì. Se uno juventino dice che quello non è rigore, e non è un romanista, è un juventino, ma chiunque... io interista dico che quello è rigore a tutti gli effetti. Sì. Continuiamo a ragionare per categorie, mi raccomando, che vedrà che passi avanti facciamo. Allora, supponiamo che glielo dica un sampdoriano. No, poi le volevo dire. Glielo dice uno che ha una debolezza, un debole per il Chievo. Io da leggerissimo appassionato del Chievo le dico che quello non era rigore. Perfetto, però un juventino... Ma se ero juventino non lo potevo dire. Ma permetto che un interista vi difenda o no? Ma certo, quello che mi piace sentire è che qualcuno ha diritto di parola e qualcun altro no. Fantastico. Poi? Diciamo che la partita Siena-Genova, se al posto del Siena ci fosse stata l'Inter, con quel gol scandaloso, mi dica lei cosa sarebbe successo? Con quel gol scandaloso cosa sarebbe? Il gol annullato al Genova. Ma cosa c'è di scandaloso? Forse non c'è fuorigioco, e se non c'è, non c'è per 10 centimetri. No? E per carità, ci ha rimesso il Genoa. Ma quello secondo lei è un errore scandaloso? L'errore scandaloso a Siena è stato quando è andato un gol buono a Maicon, che i fuorigiochi erano in 5. Tant'è vero che sembrava la difesa del e non l'attacco, o no? E quello annullato al Genoa? Franco, abbia pazienza, sono le 14:56:49 e temo che siamo già oltre il tempo massimo. Mi spiace per Nicola da Verona, ci sono i giorni fortunati in cui ci si mette in coda e quello davanti se la cava civilmente e quelli meno. Grazie a tutti anche per oggi, grazie a Filippo Aureggi in regia, a Flavio Suardi in redazione, speriamo bene, speriamo sempre meglio per domani. Giornale Radio.